Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. İtabella'dasınız. Bugün 50'li ve 60'ların kıymetli Napoliten yorumlarıyla meşhur 24 Haziran 1934 Bologna doğumlu Gloria Prestieri ya da Gloria Christian'ın şarkıları konuk olacak programımıza. Sanatçı bir ailenin kızı olarak dünyaya geliyor. Napoli'li bir caz trompetçisi olan babasının trompet sesleri arasında doğan Gloria Christian'ın annesi ise Venedikli. Bir turne esnasında Bologna'da doğuyor ama aslında çocukluğu Napoli'de geçiyor. Kariyerine 1954 yılında ilk albümü olan Pecos Bill'le uzun bir süre sanatçı olarak bağlı kalacağı Vis Radio plak şirketiyle başlıyor. Şimdi biz önce yine 1954 yılından Venedik'te düzenlenen şarkı yarışmasını kazanan Aldo Alvi ile birlikte seslendirdikleri Venedik lehçesinde kendini kabul ettiren az sayıdaki parçalardan biri olan Marietta Monta in Gondola'yı dinleyeceğiz. Arkasından da Gloria Christian'dan Napoli diyalektinde bir parça olan O Violino şimdi radyonuzda. Costa far del sì e del no. Mole un ponto, costa far del sì e del no, mole un ponto tutti do. Marietta monta in gondola, che mi te porto al lido. Mi no è che non mi fido, ti è massa un impostor. Cosa te disi cocola, perché per quel boschetto? Ti mascroca un vasetto, per pisigarmi il cuor. E ti che ti che ti te disi no. Ma mi so che te batte il cuore, ticchetta, anche ti te osa, che a Venezia l'amor se fa in gondoeta. Dico no, no che vegno, no. Costa far del sì e del no, mole che un ponto, mole che un ponto. Costa far del sì e del no, mole un ponto tutti do. Ma guarda che spettacolo, la luna se d'argento. Non far del sentimento, cosa te vol mi so. Sora le tonde cupole, svola le colombelle. E sonte che pur le stelle, ma non che vegno no. E ti che ti che ti te disi no. Ma mi so che te batte il cuore, ti che ta anche ti te osa. Che a Venezia l'amor se fa in gondoeta. Dico no, no che vegno no. Costa far del sì e del no, mole che un ponto, mole che un ponto. Costa far del sì e del no, mole un ponto tutti do. Va ben, finimola, mi ciapo un'altra strada. Ti fa una balossada, non so se ti conviene. Me cercherò felicità per farte un bel dispetto. Mi no che non permetto, perché te voglio bene. E ti che ti che ti te disi sì, anche a me si me batte il cuore. Ti che ti che ta che felicità, a Venezia l'amor se fa in gondoeta, in gondoeta, in gondoeta te darò un basì. Teneva nu violina di sua proprietà, con mamella capriesse leieva, consumava ne vie da città. E Tatilla suonava violina e mamella cantava canzone, o nannilla passava piattina, liriulin, liriulin, liriulà. E Tatilla suonava violina e mamella cantava canzone, o nonnilla passava piattina, liriulin, liriulin, liriulà. Matilde dicette, non c'ha faccia, so stanchi e suonare, e posanno violina, muretta, e mamella fernette cantare. Con mamella vennetto violina, e cagnaia pure esso padrone, a nannille è rimasto piattina, liriulì. Con mamella vennetto violina, e cagnaia pure esso padrone, a nannille è rimasto piattina, liriulì. Sta cantando migliaia di canzoni, da mancella una lira nannilla, liriulì. Marietta Monte in gondola ve o violino dinledik. 1956 yılına geldiğimizde Sanremo Festivali'ne katılmadan önce o yılın belli başlı pek çok festivalinde ve müzik yarışmasında tabiri caizse parladı. Velletri Festivali'ne Se Fossera Sulla Luna ile birincilik kazanarak başladı. Como Festivali'nde finalde Angelina Dimmi Si şarkısını seslendirdi. Vibo Valentia Festivali'nde Calabria Samba ile ikincilik kazanırken aynı yılın çok önemli festivallerinden biri olan Sicilya Palermo Festivali'ne de katıldı. Capri Festivali'ne ise Fransızca ve Almanca şarkılarla katıldığı bilgisini de eklemeliyim. 1956 yılından başka iki parçayla devam edeceğiz şimdi. Önce Dimmi Di Si, arkasından da Qualcosa è Rimasto, şimdi Itabella'da. Dimmi sì, solo sì, il tuo cuore non deve esitare, e felice ti farà, con un bacio puoi provare, se ti piace riprovare, poi ancora continuare, fino a quando mi dici di sì. Se il mio amore ti sa conquistare, dimmi sì, solo sì, con il cuore non si deve scherzare, tu lo sai. Io ti sposo con grande piacere e ti dico sempre sì. E ti dico sempre. mai più ritornare. Alle spalle chiudesti la porta per non salutare. Hai portato tutto con te, le illusioni e i sogni d'amore, ma per me qualche cosa c'è ancora. È rimasto qualcosa di te, qualche cosa che ancora vive in me. Forse oggi non ci sei più, la dolcezza che avevi tu m'accarezza ancora come allora. È rimasto qualcosa di te, ricordare mi fa chi più non c'è, il sospiro d'una canzone che parole più non avrà, e soltanto il mio cuore canterà. Dimmi di sì, ve qualcosa è rimasto, dinledik Gloria Christian'dan. 1957 yılında ödüllerle geçen bir yıldı onun için. Cassetta in Canada ve Le Trotte Bleu şarkılarıyla ilk kez Sanremo Festivali'ne katılarak zafer kazandı. Aynı yıl Piacenza'nın Altın Maskesi, L'Oscar della Canzone di Capri ve Gümüş Gondol ödüllerini kazandı. Daha sonra Stupidella ile Venedik Festivali'nde, Sabato e Festa ise Palermo Festivali'nde birincilik kazandı. Napoliten Şarkı Festivali'nde Numerata di Spettuso üçüncülük ödülünü ona getirdi. Velletri Festivali'nde Umwalzer Perte ile ise ikincilik Gloria'nındı. Şimdi bu festival parçalarından Cassetta in Canada ve Stupidella ile Gloria Christian şimdi radyonuzda. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Quando Martin vedete solo per la città, forse voi penserete dove girando va, solo senza una meta, solo ma c'è un perché. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Ma un giorno per dispetto Pinco Panco l'incendiò e aprì un poveretto, senza casa lui restò. Allora cosa fece? Voi tutti chiederete, ma questa è la sorpresa che in segreto vi dirò. A lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Ma però quel tale Pinco Panco tutte quante le incendiò. Allora cosa fece? Voi tutti lo sapete. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Dicevano che bella la casetta in Canada. Stupidella! Stupidella! Stupidella! Stupidella! Stupidella, non capisci che ti voglio ancora bene. Stupididubidu, non t'accorgi che il mio cuore tutto intero t'appartiene. Stupididubidu, ora basta per favore che m'arrabbierò, e se perdo la pazienza ti sculaccerò. Ho scherzato quando ho detto che non ti volevo più. Stupidella, non lo sai che mi sei tanto, tanto cara. Schiudididubidu, che ti penso quando è notte, quando è giorno e quando è sera. Schiudididubidu, se talvolta litighiamo, questo non vuol dire che non ci vogliamo bene, che dovrà finir. Questo nostro amore è fatto anche di baci e di sospiri. Vieni qui, vieni qui, dammi un bacio e poi non ne parliamo più. Senti un po', senti un po', la ragazza che amo sul serio sei tu. Stupidella, non capisci che ti voglio ancora bene. Schiudididubidu, non t'accorgi che il mio cuore tutto intero t'appartiene. Schiubididubidu, ora asciugati con gli occhi, non sopporto più di vederti così brutta, non mi sembri tu. Tu che sei una stupidella, ma sei bella e sei l'amore. Stupidella, stupidella, stupidella, stupidella. Tu che sei una stupidella, ma sei bella e sei l'amore. Cassetta in Canada ve Stupidella dinledik Gloria Christian'dan. 1958 yılına geldiğimizde Eurovision'da Giorgio della Lago Maggiore ile ikinci oldu. Sanremo Festivali'ne 3 parçayla geri döndü. Cosa un bacio, Timida Serenata ve O disegnata un cuore. Napoli Festivali'nde ise yine 3 parçayla yer aldı. O Cantastroie, Mandolina do Texas, O Calippese Napolitano. Televizyonda da Canzonissima'da Nel Blu Dipinto di Blu şarkısıyla yer aldı. Şimdi biz önce Giorgio del Lago Maggiore, arkasından da Nel Blu Dipinto di Blu'yu Gloria Christian'dan dinliyoruz. O Giorgio, Giorgio del Lago Maggiore,

mondo di stelle. Volare, oh, oh. Cantare, oh, oh, oh. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, oh. Cantare, oh, oh. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. Giorgio dal Lago Maggiore venne il blu dipinto di blu dinledik. 1962 yılında Sergio Bruni ile birlikte Maracchiaro Maracchiaro ile kazandığı Napoli Festivali'ne 57'den 69'a kadar tam 10 kez katıldı. Aynı edisyonun Aurelio Fiero ile birlikte katıldıkları Pulcinella Twist parçasıyla da ikinci sırayı aldı. 1965 yılında Roy Silver ile birlikte Scordame ile finale yükselirken 1967 yılında Nino Taranto ile birlikte Aprusteta ile ikinci oldular. Şimdi biz önce Maracchiaro Maracchiaro, arkasından da Napoli diyalektinde Scordame, şimdi Itabella'da. tenga luna e tenga te. Mare chiaro, mare chiaro. Mare chiaro, mare chiaro ve şkordame dinledik Gloria Christian'dan. Sanremo Festivali, Napolitan Şarkı Festivali ve Letri Festivali derken bütün bu festivaller serisine Ischia Denizcilik Şarkı Festivali'ne L'Orologio di Lacco Ameno, Como Festivali, Vibo Valentia Festivali, Capri Festivali, Palermo, Venedik Festivalleri de dahil oldu. 1969 yılına geldiğimizde Berlin Festivali'ne Almanca bir parçayla Ich bin es und guten Kleid ve ertesi yıl 1970 yılında ise Komme es die Wahre Liebe ile katıldı. Bu iki parça için bir 45'lik yayınladı. Biz şimdi bu 45'in her iki yüzüne de kulak veriyoruz. Jeden Abend, wenn ich Als ein guting Lied, willkommen erst die wahre Liebe, Radyonuzdaydı. 1960'larda şarkı söylemeyi biraz daha azaltıp daha çok televizyon kariyerine önem vermeye başladı. Mutlu Tatiller, Napoli'de Randevu, Kış Bahçesi gibi pek çok önemli programa katıldı. Şimdi 60'lardan Sanremo'ya katıldığı parça olan, 1960 yılında Sanremo'ya katıldığı parça olan diyelim, Amore Abisso Dolce, arkasından da 1962 yılından bir kayıt olan Amore Cinese ile Gloria Christian şimdi Itabella'da. Splende il sole sopra la cima, ma laggiù qualcuno chiama, è la sua voce che più mi piace, e laggiù scenderò. Amore, amore, abisso dolce, mi fai cadere lentamente. Mi sento vinta al primo istante e non so resistere più. Amore, amore, abisso dolce, son nel tuo vortice profondo e inutilmente sto piangendo. Vuoi tu che volto hai, ancor non so vedere, nascosto sei, ma sento il tuo respiro e sento già le tue mani leggere che afferrano il mio cuore. Silenziose, fra le tue spine e le tue rose, finalmente negli occhi ti vedrò. piace il fior di loto, mi piace il verde tè della Cina, amo tutto e sai perché. Il mio amore è un cinese, bacia solo con il naso, veste abiti di raso con i fiori di lilla. Cina, cin, cina, cin, cina, cina, cia, cia, cia. Vada pure per il raso, che di moda in quel paese, ma baciare con il naso, no, no, no, proprio non va. Cina, cin, cina, cin, cina, cina, cia, cia, cia. E per questo ogni giorno divento maestrina dotta per fargli imparare con pazienza e con timido accento che il mio naso in pace lui deve lasciar. Questo amore mio cinese già il mio naso più non tocca, ma mi bacia sulla bocca come un divo al cinema. Cina, cin, cina, cin, cina, cina, cia, cia, cia. Per fargli imparare con pazienza e con timido accento che il mio naso in pace lui deve lasciar. Questo amore mio cinese già il mio naso più non tocca, ma mi bacia sulla bocca come un divo al cinema. Cina, cin, cina, cin, cina, cina, cia, cia, cia. Mi piace assai Shanghai, mi piace assai Pechino, il mio amore cinese. Cina, cina, cia, cia. Amore abisso dolce de amore cinese. E lei Gloria Christian Radio non stai da. Garinei Giovanni'nin ünlü müzikal komedisi Rugatino'da 1964 itibariyle Bicevoleri'nin yerine sahne almaya başladı. Bu yapımda ayrıca Tony Ucci, Carlo Dalla Piani, Ornella Vanoni ve Aldo Fabrizi de yer alıyordu. Uzun bir aradan sonra 1990'larda Renzo Arbore'nin programı Il Caso San Remo'da 1950'lerin temsilcisi olarak televizyonda yeniden göründü. Ardından Una Rotonda sul Mare programında yer alacaktı ama bazı sesiyle ilgili sıkıntılar yaşadı. Genetekim daha sonra ses tellerindeki bir tümör nedeniyle canlı şarkı söylemeyi tamamen bırakmak zorunda kaldı. Ama bu onun Paoli Limiti'nin ünlü canlandırma programlarına pek çok kez katılmasına engel olmadı. Şimdi en sevilen iki şarkısıyla Caffè Espresso ve Bimba Nel Napoli ile Gloria Christian radyonuzda. Perché non vieni giù a prendere il caffè? A prendere un caffè o quello che vuoi tu, ma vieni, vieni giù. C'è un angolo in quel bar, laggiù vicino al mar. Se io t'aspetto là, prometti che verrai a bere un buon caffè. Non ci sarà nessuno ad ascoltare ed il barman è discreto e poi lo sa che se due innamorati vanno là e di troppo se ne va. Perciò t'aspetterò, ma tu non dir di no. Di là potrai guardare il sole tramontare stringendoti al mio cuor. C'è un angolo in quel bar che è fatto per sognare. Laggiù t'aspetterò e poi ti bacerò davanti a un buon caffè. A prendere un caffè o quello che vuoi tu, ma vieni, vieni giù. C'è un angolo in quel bar, laggiù vicino al mar. Se io t'aspetto là, prometti che verrai a bere un buon caffè. non ci sarà nessuno ad ascoltar, ed il barman è discreto e poi lo sa che se due innamorati vanno là e di troppo e se ne va. Perciò t'aspetterò, ma tu non dir di no, di là potrai guardare il sole tramontare stringendoti al mio cuor. C'è un angolo in quel bar che è fatto per sognar, laggiù t'aspetterò e poi ti bacerò davanti a un buon caffè. La la la la la la, la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la. Bella bimba, ti ricordi di me? Per la strada mi vendesti dei fior, i tuoi fiori come porconer, bella bimba, li ho qui sul cuor. C'era un sole che bruciava sul mar, un profumo che saliva nel ciel. Io sognando me ne andavo così nell'incanto di Napoli. Guardandomi sussurrasti, volite sti rose, signor. Andavi coi piedi scalzi, vestita di mare, di sole, di blu. Tu leggesti nel mio sguardo, lo so, un'amara delusione d'amor. E svanisti tra la folla e di fior, bella bimba di Napoli. Voglio ritornare al tuo azzurro mar, oh meravigliosa. Bella bimba, mi vendesti quel dì, solo un po' di primavera lo so, ma da allora più non posso scordar l'incantesimo del tuo mar. I tuoi fiori porto ancora con me, appassiti tra i ricordi d'amor, ed io sogno come allora così le canzoni di Napoli. Bambina, tu più non dici, pulite sti rose, signor. A un giovane pescatore sussurri da mille nuvaso guaglio. Bella bimba, quando penso al tuo ciel, mi ricordo di un bel sogno d'amor che è svanito col profumo dei fior nell'incanto di Napoli. Voglio ritornare al tuo azzurro mar, oh meravigliosa. Kafe Espresso ve La Bimba di Napoli ile Gloria Christian radyonuzdaydı. Bugün 50'lerin ve 60'ların çok başarılı İtalyan Napolitanlerinin unutulmaz yorumcusu Gloria Christian'ın şarkıları vardı Itabella'da. Şimdi o en bilinen Napolitanlerden biriyle veda edelim. Ben Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. Gloria Christian'dan Lazzarella ile kapatıyoruz. Hoşçakalın. C'è camicetta a fiore blu, vuoi fare signore nell'annanza scuola pure tu. Ti pigli la sigaretta quando accatto papà, ti metto già un rossetto come vire fa mamma Lazzarella. Ma Lazzarella come sì, a me mi piace sempre più. E venga apposta per tutti vicino a scuola, oh Gesù. Tu invece mi rispondi già, io devo retta proprio a te. Per me l'amore può aspettare, che non ha già fa, non fa per me. alla zarella vantate primavera. Quando passo tutte mattine già ti spiecchia dentro il vetrino, solo un complimento ti fa vampà. Ma la zarella come sì, tu non mi pienso proprio a me, e rire poi mi fa capire che perdo tempo appresso a te. Mo viene uno studente innanzi a scuola do Gesù, te va sempre più a stretta camicetta a fiore blu, te piglia quattro schiaffe tutte foto che papà, te trovano un biglietto che te scrive che la lazzarella. E lazzarella come sì, ci sei caduto pure tu, l'amore non ti fa mangiare, ti fa soffrire, ti fa pensare. Una sera tu lo dici no, una sera tu lo dici ma se non vas a dove da, fai segni sì senza parlare. Alla zarella un tempo come vola, ma te trovo tutte mattine chi ne lacrime sto cuscino, manca una compagnella ti può aiutare. E chiano chiano mo così ti sei cagnato pure tu, e ti preparati stu sì, ma dentro a chiesa do Gesù. Lazzarella, mo si già, mamma.